E allora, buonasera, bentrovati e bentrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siete a Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera che vi tiene compagnia con i temi di scienza e tecnologia ormai da 18 anni. E vogliamo salutare fin da subito chi ci sta ascoltando, in particolare chi lo sta facendo dal carcere. E vi vogliamo ricordare che stasera abbiamo in programma una puntata speciale. Quest'anno infatti abbiamo inserito all'interno dei nostri cicli soliti, che chi ci segue ben conosce, anche il ciclo sulle biografie scienziate e scienziati. Abbiamo con noi stasera Daniela. Ciao, allora, buonasera a tutte e a tutti. Questa sera, Daniela, di che ci parli? Ci parli di una scienziata molto particolare, molto interessante. Sì, allora, oggi vi parlerò, questa sera vi parlerò di una scienziata tenuta nascosta per molti anni, quasi 200, che si chiama Eunice Newton Foot. È una scienziata che si è dedicata a ricerche e prove di laboratorio in diversi rami delle scienze, dalla chimica alla meteorologia. Perché voglio raccontarvi di questa donna? Il motivo è chiaro, perché appunto fino all'altro giorno non conoscevo nemmeno io l'esistenza di questa scienziata, che è vissuta negli Stati Uniti d'America ed è nata intorno al 1800. Perché parlare delle scienziate? Perché come mi è successo in una occasione, in un seminario, di sapere che la famosa curva di Agnesi, una curva di matematica, in realtà è una curva progettata e ideata da una donna, da Maria Gaetana Agnesi, e questo mi aveva colpito profondamente, tant'è vero che c'era anche una professoressa di matematica che rimase veramente esterrefatta, dicendo: ma com'è possibile, nessuno mi aveva mai raccontato di questo e io che sono una professoressa non lo sapevo. Quindi sempre questa idea stereotipata di tenere nascosti i nomi, per esempio il nome di battesimo. Questo avviene anche quando scriviamo, per esempio, le bibliografie. E infatti cerco sempre io di scrivere sempre nome e cognome, perché in questo mondo si ha anche la dimensione di chi ha scritto, cioè di chi è donna e di chi è uomo. Chi sono le persone, chi sono le scrittrici e gli scrittori, e secondo me è un modo di nascondere e di non qualificare e di non quantificare. Quindi quando la curva di Agnesi, si pensa sempre che sia un matematico, e invece no, era una donna. Tra l'altro questa curva è una curva a forma di cappello di strega, quindi è anche molto interessante. Io l'ho scoperto ascoltando una donna, una studiosa, una storica, che è appunto Maria Grazia di Rienzo, e che ringrazio, perché comunque è importante sapere noi donne chi siamo e da dove veniamo e che cosa abbiamo fatto. Cioè, noi ci siamo sempre state, ma le cronache ufficiali poi o non ne tengono conto o ne tengono scarsamente conto, e quindi la nostra storia viene sempre rimpiazzata con un elenco di nomi di uomini, e noi qualche volta facciamo solo capolino perché magari siamo delle regine o delle cortigiane. Invece no, ci sono state delle scienziate tra l'altro sono state anche promotrici di interessanti dibattiti. E veniamo alla nostra scienziata Eunice. Allora, intanto diciamo subito che parlo di lei perché c'è stato un ennesimo tentativo, forse anche consapevole o inconsapevole, non lo riusciamo a capire dai testi storici, di cancellare o dimenticare questa donna. Perché è importante? Allora, premesso che alcune persone sostengono che l'effetto serra di alcuni gas contenuti in atomi di carbonio sia una truffa inventata dai cinesi per rovinare l'economia americana, gli altri sanno e hanno imparato a scuola che se non ci fossero in piccolissime quantità, qualche centinaio di parte per milioni di volume d'aria, la temperatura media sulla Terra sarebbe di meno di 18 gradi, come sulla Luna. Com'è che noi lo sappiamo questa cosa? Sappiamo perché nei libri di storia della scienza la risposta è che esiste l'effetto serra, che è stato teorizzato da Joseph Fourier in Teoria analitica del calore nel 1821. Lui dimostrò, lui lo teorizzò, ma poi sappiamo anche che chi lo ha sperimentato è un certo John Tyndall, che è il fondatore cosiddetto della climatologia moderna. Lui scrisse dei testi su questo, un esperimento nel 1859. Eppure non è così, cioè ancora una volta esiste un'altra storia, esiste un'altra verità, una verità appunto che è emersa dopo 155 anni. L'emersione avviene nel 2011 perché in buona sostanza la fondatrice, se vogliamo, della climatologia moderna è proprio la nostra Eunice Foote Newton. E, ecco, quindi questa è la scoperta che ho fatto in questi giorni intorno all'8 marzo, proprio leggendo uno dei nostri quotidiani, il Corriere della Sera, e allora mi sono interessato, ho detto approfondiamo questa, la conoscenza di questa scienziata, e quindi sono qui. Ma non c'è tantissimo su questa donna, dicono che non ci siano nemmeno delle foto. Io in realtà delle foto le ho trovate, era una bella donna e, vissuta appunto nel 1800 negli Stati Uniti d'America, vicino New York, ma è molto interessante. Parliamo di questo, parliamo di lei, della sua storia, della sua vita e della sua sperimentazione. Praticamente è la prima donna scienziato che ipotizza la problematica dell'effetto serra, e quindi rientra nei nostri modi di pensare e di conoscere e di sapere. Cosa fa? Nel 1856 Eunice ipotizzò appunto, tramite una sperimentazione direi casalinga, perché non aveva un laboratorio, anche perché all'epoca nel 1840 le donne non potevano nemmeno frequentare le scuole di materie scientifiche, però lei aveva questa grande passione e cominciò a fare delle verifiche. In che modo? Allora, premesso che ha fatto anche degli altri esperimenti, però questo è quello più importante, peraltro ha anche ricevuto dei brevetti, però diciamo che questo è quello che ci interessa. Prende due tubi cilindrici di vetro, inserisce all'interno del tubo un termometro e poi riempie con diversi tipi di gas i tubi e li espone alla luce del sole e all'ombra, e fa questo esperimento più e più volte e scopre che a secondo il tipo di gas che inseriva in questi tubi la temperatura si modificava, e quindi è proprio questo il punto, cioè lei in sostanza percepisce, capisce che la temperatura dipende da questi gas. E chiaramente qual è quello che rende la temperatura più alta? La CO2. Esatto. Quindi dimostra l'effetto serra. Ora sappiamo che in piccoli elementi è necessario per il nostro pianeta la presenza della CO2, altrimenti avremmo una temperatura come quella della Luna. Però poi lei si rende perfettamente conto che questo potrebbe essere un problema per la Terra, anche se siamo nel 1848. Infatti lei è famosa per questa frase alla fine, perché poi è stata più volte richiamata dagli scienziati, ma sempre a partire dal 2011: un'atmosfera formata da quel gas, e si riferisce alla CO2, porterebbe la nostra Terra a una temperatura più alta, e se qualcuno volesse supporre in un periodo della storia esso fosse mescolato in maniera maggiore nell'aria, ne diverrebbe un aumento della temperatura causato dalla sua azione. Quindi in sostanza lei è quella che capisce per prima il principio del riscaldamento climatico. L'ho trovato troppo interessante. È veramente molto molto interessante. Insomma, grazie di aver fatto questa ricerca per noi. Questa è la ricerca. Ci vogliamo prendere una pausa musicale? Allora. Madonna, c'ho una sete. È incredibile, no? Nella sua casetta, cic cic. Questa era ovviamente il motivo portante della colonna sonora di Lezioni di Piano. Siamo qui a Entropia Massima, stiamo parlando di Eunice Newton Foote, e direi che ti lascio questo bellissimo sottofondo e ti lascio parlare. Va bene. E allora, la nostra scienziata nasce nel 1819 nel Connecticut, e il suo padre si chiama Isaac Newton Jr., ma è un agricoltore e un imprenditore. figlia di una numerosissima famiglia, infatti aveva 6 sorelle e 5 fratelli, e cresce nello stato di New York. Frequenta una di quelle scuole per ragazze che permetteva tuttavia alle iscritte di frequentare i laboratori di scienze della scuola vicina, che sicuramente io credo fosse maschile, e si appassionò alla chimica, alla biologia, alla fisica. A questo punto la frequentazione della scuola va dal 1836 al 1838, studia alcuni testi di scienziati famosi e tuttavia conosce questa Emma Willard, che è stata una pioniera nel mondo della scienza, tant'è vero che è stata una delle prime donne esperta in botanica e componente di un'associazione scientifica americana, dove le donne all'epoca non avevano accesso, soltanto 2 o 3 probabilmente all'epoca della scoperta di Eunice. Cosa succede? Premesso che nel 1841 sposa Elijah Food, quindi Food è il cognome da sposata, questo è un giudice, ma anche lui è appassionato di scienza ed è un inventore, si trasferiscono a Seneca Falls, dove hanno come vicina di casa, indovinate chi? Una delle più famose suffragette, che è Elizabeth Cady Stanton. E quindi siamo nel periodo, diciamo, della primora delle suffragette, quindi le loro battaglie erano soprattutto per il diritto al voto per le donne. Quindi in questo luogo nasce il primo movimento femminista statunitense, e infatti la nostra scienziata insieme al marito sono i primi firmatari della famosa dichiarazione dei sentimenti e dei diritti della convocazione a Seneca Falls. Quindi era anche un'attivista suffragetta e nonché madre di 3 figlie, quindi comunque figlie che sono state educate e sono diventate artiste, pittrici, perché Eunice era anche attenta all'arte e una brava paesaggista, quindi comunque caratteristiche che forse sono importanti per chi studia biologia o botanica, per trascrivere e prescrivere. All'epoca si usava molto questo tipo di modalità. Allora, dicevamo, sposa questo Food, che è anche un giudice, e firmano questa famosa carta di Seneca Falls. È un passaggio importante. Poi io, tra l'altro, ho cercato la traduzione, se abbiamo un attimo di tempo lo leggiamo, perché a parte la questione del diritto del voto ci sono alcune frasi che un po' fanno sorridere, no? Visto l'epoca, però era importante che comunque prendessero per la prima volta in mano la situazione le donne di quel periodo. Allora, abbiamo detto che è stata la prima scienziata ad aver sperimentato l'effetto del riscaldamento della luce solare con diversi gas, e ha teorizzato che la modifica della proporzione di anidride carbonica nell'atmosfera ne avrebbe modificato la temperatura. Dove lo scrive tutto ciò? Lo scrive in un articolo che si intitola «Circostanze che influenzano il calore dei raggi del sole». E lo porta alla conferenza dell'American Association nel 1856, ma ancora una volta, pur essendo una dei membri, chiamiamoli semplici, dell'associazione, le donne non possono parlare e non possono presentare le loro ricerche. Quindi lo farà un collega, cosiddetto dei membri professionali, perché loro avevano il diritto di parola, mentre le donne che partecipavano a questa associazione non avevano la possibilità. E quindi avendolo presentato un uomo, e forse mettendoci il famoso puntino davanti al nome, non era evidente che comunque fosse una donna ad aver portato alla luce queste circostanze che influenzavano la temperatura. E quindi fino a questo punto farà altre ricerche, altre scoperte per noi meno importanti, non riceverà alcun premio e viene silenziata, cioè silenziata perché dopo 3 anni lo scienziato irlandese John Tyndall, e qui diciamo subito, probabilmente Tyndall dice di non conoscere la ricerca della FUT, probabilmente perché si trovavano in paesi diversi, perché uno era appunto irlandese, l'altra era statunitense. Comunque, lui sostiene che ha considerato soltanto un lavoro di un precedente suo collega, ma che comunque è il primo a teorizzare questo concetto che l'aumento di CO2 nell'atmosfera provoca il riscaldamento globale. E vabbè, lascio a voi ogni giudizio. Insomma, non è neanche la prima volta. Poi, fra l'altro, noi affrontiamo proprio in questa rubrica della nostra trasmissione, e spesso ci troviamo purtroppo in situazioni analoghe a queste. Va bene, allora facciamo un'altra pausa musicale, e a proposito di donne, sentiamoci un pezzo molto molto bello. What about Women? Sì. Di Yael Deckelbaum, che peraltro abbiamo già ascoltato in questa trasmissione, e insomma abbiamo ricevuto anche dei complimenti, e quindi lo riproponiamo molto volentieri in questa circostanza. Turn all hell into a paradise through love and recreation. For liberty and unity we strive to sanctify the very gift of life, releasing every woman, man and child to self-realization. So think alone and let yourself decide for who you are, hold up your head and pride. Release your fear and let your power shine. Fear and desperation. Look for compassion in your heart of gold, and you will find the universal soul. As we are pieces of a greater whole, craving restoration. If we decide to change the rules, we can free every human all across the land. The magic is sitting in your hand. It's time. Too many men, too many men, lost in the arms. of the world, there are too many men, e questa sera... Troppi, tanti. Diciamo quantomeno quelli che si appropriano delle scoperte delle altre. Sì. Infatti stasera stiamo parlando di questa scienziata, Eunice Newton Foote, che è stata la prima a teorizzare e a dimostrare anche la teoria in base alla quale l'esistenza dell'effetto serra. E del legame della CO2 con la temperatura, che chiaramente per la nostra trasmissione è fondamentale. Questa è una scoperta di cui noi, insomma, ci serviamo, no? per fare non solo questa trasmissione, anche tante altre trasmissioni della radio. Insomma, una scoperta veramente incredibile. Certo. E comunque l'articolo con l'esperimento della nostra scienziata viene pubblicato nell'American Journal of Science and Arts, ma come dicevo è un altro professore a leggere il suo intervento, e quando lei lesse l'articolo della signora Foote lo introdusse con pochissime parole, dicendo appunto che la scienza non era di nessun paese e di nessun sesso, e aggiunse che la sfera della donna abbraccia non solo il bello e l'utile, ma anche il vero. E questo è riportato a pagina 159 del riassunto insomma della ricerca che poi era stata portata avanti. Come dicevo, lo ripeto, a questa ricercatrice statunitense sono bastati due termometri e due cilindri di vetro ed una pompa a vuoto per concludere che più anidrida carbonica è presente nell'atmosfera, più calore si avrà sulla Terra. Che è appunto l'effetto che ora conosciamo con il nome di riscaldamento globale. Per il suo esperimento isolò appunto i gas che compongono l'atmosfera e li espose ai raggi del sole, sia la luce che in ombra, misurando la variazione di temperatura, scoprì che l'anidride carbonica e il vapore acqua assorbivano abbastanza calore da poter influenzare il clima. E quindi questa è la ricerca. Ma allora, cosa altro vi volevo aggiungere? C'è stata c'è stata sempre questa grande incognita di Tyndall che sostiene che praticamente non sapeva della ricerca. E allora come hanno reagito gli altri scienziati? Allora, questo Roland Jackson, scienziato storico e biografo di Tyndall, ha pubblicato un articolo nel 2019 intitolato appunto Eunice Foote, John Tyndall è una questione di priorità, e in esso sostiene che da una prospettiva contemporanea ci si potrebbe aspettare che lo scienziato irlandese fosse a conoscenza delle scoperte di Foote, ma ipotizza che poteva anche non esserlo, sollevando le questioni storiche più profonde sulle connessioni e le relazioni tra fisici americani ed europei a metà del XIX secolo. Quindi in sostanza, poiché si trovavano in continenti diversi, era quello che dicevo, cioè questo però avviene nel 2019, quando già si conosce che è stata Tyndall, che è stata Eunice Foote a scoprire, diciamo, questo effetto serra e le sue dinamiche. Chiaramente la nostra amica scienziata era svantaggiata non solo dalla mancanza di una comunità accademica in America e della scarsa comunicazione con l'Europa, ma anche da altri fattori: il suo genere e il suo status di dilettante. Cioè, mentre gli altri avevano l'opportunità di studiare nelle accademie, nelle associazioni, avevano fondi, come ci insegna Virginia Woolf, lei era un'autodidatta, svolgeva i suoi esperimenti a casa, magari gestendo pure tre figlie, e quindi questa è la conseguenza della non notorietà a quei tempi. Però nel 1800, con poche risorse, infiniti ostacoli in un terreno monopolizzato dagli uomini. La storia di questa donna di Eunice Food serve a ricordarci che, nonostante la grande lotta fatta dalle donne per emergere nella scienza e nella società, e malgrado 155 anni fa fossimo a conoscenza dei potenziali effetti negativi del riscaldamento dell'anidride carbonica, oggi ci troviamo lo stesso di fronte a questo problema, a questa crisi climatica, e a dover percorrere ancora tanta strada per arrivare verso la parità di genere. Quindi questo è il nostro cruccio, se vogliamo, però per fortuna che poi ci sono persone che ricercano, che studiano, che indagano, e vi dico che c'è veramente pochissimo materiale. Non l'avrei potuta portare in radio se non avessi letto un trafiletto sul Corriere della Sera. Quindi vi consiglio di andare a ricercare la materia, se volete, anche perché c'è il documento diciamo del suo esperimento, quello pubblicato, e anche la firma sulla dichiarazione di Seneca Fall della nostra scienziata. Quindi comunque ci sono tracce, la carta resta, e alla fine si conosce la verità e la storia di queste donne, per fortuna. Volevo aggiungere una cosa, che nel novembre del 2019 presso l'Università della California una conferenza e una mostra hanno finalmente riconosciuto il contributo della FUT alla scienza, al clima e alla sua omissione dalla storia. La storia di FUT non è mai stata così significativa come oggi, perché migliora la visibilità delle donne nella scienza e il loro contributo significativo. E questo che ha parlato è John Perlin, che dice: la chiamerò la Rosa Parks della scienza, perché appunto gli hanno riconosciuto questo titolo, in sostanza, finalmente nel 2019 l'hanno riconosciuta, cioè scoperta nel 2011 e finalmente poi nel 2019, quindi sono passati tantissimi anni dalla sua esperienza, dal suo esperimento. E io penso di aver concluso. Sì, direi che ho concluso. Accennavi a quella lettura da fare. Beh, la lettura, sì, appunto, la lettura è, allora vi consiglio di leggere i testi di alcune femministe che parlano di tutte le scienziate del mondo e che spesso non sono note. Adesso mi sfugge il titolo, scusatemi, e poi appunto vi consiglio di leggere proprio l'esperimento, è fatto in inglese, io non ho avuto il tempo di tradurlo, ma anche la traduzione della dichiarazione dei sentimenti e deliberazioni di Seneca Fall. Vediamo se trovo una frase, perché forse l'avevo segnata. Ma magari metto, sì, metto okay. Un altro pezzo, perché Daniela quando viene ovviamente ci porta anche delle chicche musicali, e quindi vi faccio ascoltare una sua proposta, Oum Awa. Hey! E allora rieccoci in voce dopo quest'altra bellissima pausa musicale che insomma ci siamo concessi. E nel frattempo Daniela ha ritrovato quei passaggi che voleva leggerli, quindi le cedo subito la parola. Grazie. Allora, è logicamente una traduzione del 1881 su un documento appunto del 1848 che ho tratto dall'Osservatorio di Storiografia Giuridica, appunto le fonti alla Convenzione di Seneca Fall. Allora, sentite questa, è proprio carina. La storia del genere umano è una storia di ricorrenti offese, usurpazioni attuate dall'uomo nei confronti della donna, al diretto scopo di stabilire su di lei una tirannia assoluta. Per dimostrare ciò, esaminiamo i fatti con occhio imparziale. Lui non le ha mai permesso di esercitare il suo inalienabile diritto al voto. L'ha costretta a obbedire a leggi alla cui elaborazione ella non partecipava in alcun modo. L'ha privata di quei diritti che sono riconosciuti anche al più ignorante e al più indegno degli uomini, sia indigeni che stranieri. Avendola privata del primo diritto di un cittadino, il diritto di voto, lasciandola di conseguenza priva di rappresentanza nelle assemblee legislative, l'ha oppressa sotto ogni punto di vista. L'ha posta quando era sposata in una condizione di morte civile davanti alla legge, le ha tolto ogni diritto di proprietà, perfino sul salario da lei percepito. E poi continua, però insomma era soltanto per dirvi qual era l'atmosfera di quel periodo. Quindi comunque la nostra scienziata era una donna da un certo punto di vista familiare fortunata, perché condivideva con il marito, e questo risulta, l'amore per la scienza e anche l'amore per i diritti. E anche il compagno, anche il marito, era quindi una persona che seguiva il movimento delle suffragette, come sappiamo sono esistiti, ecco, quindi lo volevo sottolineare. L'importante è trovarsi a fianco l'uomo giusto. Certo, assolutamente. Bene, o la donna giusta, insomma. O la donna giusta. Poi dalle preferenze. Certo. Direi che abbiamo fatto una bellissima puntata, Daniela, e quindi insomma possiamo congedarci con... vi volevo dire una cosa, perché non lo so se l'ho detto la volta scorsa, ma probabilmente no. Allora, sulla guerra e sul territorio sul quale si sta facendo questa guerra. Allora, vicino Kiev, nel periodo del Neolitico, vivevano popolazioni pacifiche e il loro nome era proprio Cucuteni Triplilia. Sono quelle popolazioni di cui vi ho parlato la volta scorsa quando vi ho parlato della archeologa di Maria Gimbutas. E l'archeologa provò che esistevano delle invasioni Kurgan di indoeuropei su quel territorio. Mi sembra che la storia si ripete. Ecco, volevo soltanto accennare a questo aspetto storico-antropologico. Va bene, grazie molte. Prego. E niente, quindi chiudiamo qui per questa sera. Naturalmente Entropia Massima torna il prossimo lunedì, come tutti i lunedì. E sarà la volta del ciclo tecnologico, e poi via via ci saranno tutti gli altri: Libera Scienza, Libero Stato, Economia e Ambiente. Quest'anno sapete che abbiamo anche puntate collettive che insomma in qualche modo ci è stato detto funzionano anche di più quando riusciamo un po' a fare una sintesi fra i vari argomenti e a portare anche degli ospiti con cui approfondire determinate cose che durante le puntate normali non riusciamo. Quindi probabilmente continueremo ancora con questa formula, e naturalmente scienziate e scienziati, biografie scienziate e scienziati, che tornerà anche lei tra un mesetto circa con un'altra puntata. E allora un abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto chi l'ha fatto dal carcere. Entropia Massima termina qui, buona serata e buona continuazione con le trasmissioni di Radio Onda Rossa.